Se le nostre elettrici non si trovano molto contente della società nella quale codesta scena le ha introdotte, noi dobbiamo ricordar loro che la caccia degli uomini si innalza poco a poco alla dignità di una professione legale e patriottica in grazia della promulgazione della Fugitive Slave Bill. Se la schiavitù fa ancora nuovi progressi nella vasta regione che si estende tra il Mississippi e l'Oceano Pacifico, il trafficante e il cacciatore di creature umane potranno venire ammessi nella nostra aristocrazia. Mentre accadeva questa scena nell'osteria, Samuele e Andy con vera contentezza tornavano verso casa. Il primo di essi, gongolante del più vivo giubilo, esprimeva la propria esultanza con ogni sorta di ululi e gridi strepitosissimi e con vari strani movimenti e contorsioni di tutto il corpo. Talvolta si sedeva a rovescio, con la faccia rivolta alla coda del cavallo, poi mandava un grido e con un salto pericoloso si rimetteva al suo posto, assumendo allora un aspetto grave. Prendeva a sermoneggiare sulle risa e sul contegno di Andy. Fra tutte queste evoluzioni, egli continuava ad accelerare il passo dei cavalli, tanto che, verso le 11 di notte, il noto scalpitio rimbombava sotto la veranda. La signora Shelby corse alla balaustrata. «Sei tu, Samuele, dove sono essi?» «Il signor Ely si riposa in locanda, egli è terribilmente affaticato, padrona.» «Elisa!» «E là ha varcato il Giordano e ora trovasi, possiamo dire, nella terra di Canaan.» «Come? Che vuoi tu dire?» esclamò con voce quasi soffocata dalla commozione la signora Shelby, e poco mancò che non svenisse al pensiero del significato che potevano avere le parole di Samuele, cioè che fosse morta. «Padrona, Iddio prende cura dei buoni.» Elisa ha attraversato l'Ohio in modo sì mirabile, come se il Signore l'avesse tratta in un carro di fuoco a due cavalli. La pietà di Samuele era, sempre agli occhi della padrona sua, d'un fervore straordinario, ed egli allora sapeva trovare in copia figure ed immagini bibliche. «Vieni qua, Samuele», disse il signor Shelby, che era entrato sotto la veranda. «Narra alla tua padrona ciò che ella brama di sapere. Andiamo dentro, Emilia», disse egli prendendola sotto il braccio. «Tu sei fredda e hai dei brividi. Ti lasci un po' troppo commuovere.» «Commuovere? Non sono io donna e madre. Non siamo ambedue responsabili innanzi a Dio di quella povera figliuola. Dio voglia che una tal colpa non ricada su di noi.» «Ma quale colpa, Emilia? Vedi bene tu stessa che noi abbiamo l'atto solamente, quello che non potevamo a meno di fare.» «Con tutto ciò io non posso non sentirmi colpevole e la ragione non vale a persuadermi del contrario.» «Qua, Andy, su, nero, si dorme?» gridava Samuele sotto la veranda. «Mena questi cavalli in stalla, non senti che il padrone ci chiama?» E Samuele comparve tosto all'uscio della sala con la sua foglia di palma in capo. «Ora», disse Shelby, «narraci chiaramente, Samuele, com'è andata la cosa e dove si è rifugiata Elisa, se lo sai.» «Padrone, io l'ho vista coi miei propri occhi saltare sopra il ghiaccio galleggiante. Ella ha attraversato il fiume in un modo meraviglioso, proprio un miracolo. Ho visto poi un uomo che l'ha aiutata a salire sopra la riva, Indy, e lei è scomparsa tra la nebbia.» «Samuele, ciò mi sembra alquanto dubbioso. L'attraversare il ghiaccio galleggiante non è cosa facile.» «Tutt'altro che facile. Chi potrebbe far ciò senza l'aiuto di Dio? Ora sentite com'è andata la cosa. Il signor Haley e io, Andy, siamo giunti all'osteria presso il fiume. Io andavo un po' innanzi, tanto era il mio desiderio di cogliere Elisa che non potevo star fermo, e quando siamo stati vicini alla finestra dell'osteria ho visto lei medesima proprio di faccia. Gli altri mi venivano dietro. Allora io mi fo cadere il cappello e mando uno strillo da risvegliare un morto. Elisa mi sente e si ritrae nel momento in cui il signor Haley giungeva alla porta dell'abitazione. Ella, ben potete immaginare, è fuggita come un baleno per un'altra porta, dalla parte del fiume. E signor Haley l'ha vista e si è messo a gridare con quanto fiato aveva in gola ed egli, io e Andy, a correre dietro di lei. Era giunta alla riva, dinanzi a una corrente larga a 10 piedi, sulla quale masse enormi di ghiaccio si urtavano e spezzavano tra loro e crollavano tutte insieme, come avessero formato una grande isola. Siamo giunti dietro di lei e lo giuro, sull'anima mia, la credevo presa. Quando ella, mandando un grido quale io mai ne udii, al pari di una freccia, si è slanciata sopra il ghiaccio e vi correva, urlando, saltando. Il ghiaccio scricchiolava fortemente, tentennava, si rompeva nel cozzo ed ella andava a sbalzi come un daino. Oh, Signore Dio, l'elasticità di quella giovane è in sé davvero straordinaria. La signora Shelby sedeva taciturna, pallida per la commozione mentre Samuele faceva il racconto. «Lodato Iddio che non è morta», disse finalmente. «Ma dov'è ora la povera figliuola?» «Il Signore la provvederà», disse Samuele alzando piamente gli occhi. «Come io dicevo, dunque c'è una provvidenza, e c'è per certissimo, come ci insegnò la padrona, perché Dio trova sempre qualcuno per servir di strumento alla sua volontà. E in vero, se io non mi fossi trovato colà, sarebbe stata presa non una volta ma 10. Non ho fatto fuggire stamani i cavalli, non li ho fatti correre fino all'ora del pranzo, e non ho procurato che il signor Haley facesse poi 5 buone miglia fuori strada, altrimenti egli avrebbe raggiunto Elisa non meno facilmente di quello che un cane scagliasi sopra un coniglio. Queste sono tutte arti della provvidenza». «C'è una specie di tali arti della provvidenza che tu faresti bene a risparmiare, Mastro Samuele», disse Shelby con quella severità richiesta dalle circostanze. «Io non consento che si usino tali modi con le persone che io tratto». Ma né un nero né un fanciullo avrebbe creduto alla sua collera. Entrambi capiscono istintivamente il vero senso delle cose, nonostante gli sforzi con cui si tenti simulare. Samuele non fu dunque molto sconcertato per quel rabbuffo, benché affettasse un'aria di grande umiltà e atteggiasse la bocca a contrizione. «Dice bene il padrone, dice benissimo. Ho fatto male, assai, non c'è da ridire nulla. È per certo il padrone e la padrona non possono approvare tali azioni, me ne rincresce molto. Un povero nero, però, quale sono io, è tentato spesse volte a operar male come io lo feci quando la gente si comporta come il signor Haley. Egli è tutt'altro che un gentiluomo. Tutti coloro che siano stati allevati al pari di me non stenteranno a persuadersene». «Orbene, Samuele», disse la signora Shelby, «siccome pare che tu sia ben convinto della tua colpa, così puoi andare dalla zia Chloe perché ti dia un poco di quel prosciutto avanzato al pranzo di oggi. Tu e Andy dovete avere a quest'ora una buona dose di fame». «Oh, la padrona è veramente troppo buona per noi», disse Samuele, e fatto lestamente un inchino, uscì di sala. Ognuno comprenderà, come già abbiamo fatto osservare, che Mastro Samuele era dotato dalla natura di un vivace ingegno, il quale indubbiamente lo avrebbe condotto in su nella vita politica, e che possedeva in specie l'arte di saper volgere ogni cosa a sua propria lode e gloria. Avendo egli dunque ben rappresentato la parte del pio e dell'umile, a quanto gli pareva con soddisfazione intera della sala, si cacciò sulla testa la sua foglia di palma come un bravaccio e s'avviò verso la dimora della zia Chloe con l'intenzione di ottenere i suffragi della cucina. «Terrò un discorso a questi neri», disse Samuele tra sé. «Il momento è opportuno e voglio farli rimanere di sasso». Qui è bene osservare che uno dei più dolci diletti di Samuele era sempre stato di andare col suo padrone quando egli si recava a qualche assemblea politica, dove, appollaiato sopra qualche cancello o salito fra i rami di un albero, ascoltava gli oratori con gusto indicibile, poi, discendendo in mezzo ai fratelli del suo proprio colore, radunati in quel luogo per la medesima occasione, li divertiva con la ripetizione più buffa e grottesca di quanto aveva poco prima visto e udito, conservando nel suo volto una solenne e imperturbabile serietà. E benché gli uditori che gli formavano cerchio fossero solitamente del suo stesso colore, avveniva non di rado che gli se ne affollassero intorno altri di tinta meno bruna che ascoltavano, ridevano e amicavano con gran soddisfazione di Samuele. Fatto sta che egli considerava l'eloquenza oratoria come la sua vera vocazione e che non si lasciava mai sfuggire l'opportunità di esercitarla. Conviene sapere che tra Samuele e la zia Chloe da molto tempo esisteva una certa antipatia, o per dir meglio, una manifesta freddezza, ma siccome in quel giorno Samuele vagheggiava qualche impresa nel dipartimento delle provviste, si indusse come operazione preliminare a mostrarsi in quel momento sommamente conciliativo. Sapeva che gli ordini della padrona sarebbero senza dubbio eseguiti alla lettera, ma pensò che egli vi guadagnerebbe molto se lo fossero anche secondo lo spirito. Si presentò dunque alla zia Chloe con l'aspetto di umile e commovente rassegnazione di chi abbia sofferto le più dure fatiche per soccorrere una creatura perseguitata, Ingrandì il fatto dicendo che la padrona lo aveva mandato dalla zia Chloe per ristorare le sue forze fisiche prostrate e rianimare gli spiriti abbattuti, e in tal guisa veniva a riconoscere i diritti e la supremazia della zia Chloe nel dipartimento della cucina e sue dipendenze. La cosa andò a maraviglia. Mai semplice e onesto elettore fu meglio lusingato e sedotto dalle gentilezze di un candidato politico di quanto lo fosse la zia Chloe dalle moine di Mastro Samuele. Fosse anche stato il figlio al prodigo in persona, non avrebbe potuto essere trattato con più materna sollecitudine. Egli, pertanto, si vide beato e glorioso in faccia a un ampio tegame di stagno, contenente una specie di minestrone di tutto ciò che era comparso in tavola da 2 o 3 giorni. Saporite fette di prosciutto, bei pezzi di focaccia, grossi frammenti di pasticcio in tutte le immaginabili figure geometriche, ali di pollo, ventrigli, tutto si vedeva mischiato in una pittoresca confusione, e Samuele, a guisa di monarca, sedeva a mensa contemplando quella gustosa varietà col suo cappello di palma sull'orecchio, dopo aver consentito a Andy gli si collocasse a destra. La cucina era già piena di compagni e compagne che erano uscite in fretta e a torme dalle diverse capanne per udire il seguito dei fatti della giornata. Era questa per Samuele l'ora del trionfo. La storia del giorno fu ripetuta con ogni sorta di ornamenti e fregi che ne potessero aumentare l'effetto, poiché Samuele, come taluni dei nostri novellieri più eleganti, non spacciava mai una storiella senza abbellirla con qualche tratto di sua invenzione. Scrosci di risa accompagnavano il racconto ed erano qua e là rinnovati e prolungati da tutta la minuzzaglia dei servi che allungavano il collo intorno e da ogni angolo della cucina. In mezzo a questo subbuglio e a questi sghignazzamenti, Samuele conservava un'impassibile gravità. Solo di quando in quando alzava gli occhi o volgeva agli uditori certe inesprimibili occhiate buffonesche, senza dipartirsi dalla sentenziosa altezza dei suoi ragionamenti. «Vedete, compaesani», diceva Samuele, impugnando con energia una coscia di gallinaccio, «questo vostro omiciattolo ha coraggio di difendervi tutti quanti siete, perché, secondo me, chi è capace di difendere uno è capace di difendere tutti. Il principio è lo stesso, non vi è dubbio. Chiunque venga a provocare uno di noi avrà a che fare con me. Io sono tutto per voi, fratelli. Io manterrò i diritti vostri e li difenderò fino all'ultimo». «Ma vedi, Samuele», disse Andy, interrompendolo, «stamani dicevi che avresti aiutato il signor Haley a raggiungere Lisa. Mi pare che ciò non sia molto d'accordo con quello che stai dicendo ora». «Olà», disse Samuele con accento di superiorità, «non aprir bocca su ciò che non sai. I garzoncelli come te hanno buone intenzioni, ma non conosceranno mai i grandi principi dell'azione». Andy piegò il capo, massimamente perché non intendeva che cosa significassero queste parole. E Samuele continuò. «Io ero in buona coscienza, Andy. Allorché mi sono indotto a correre dietro a Elisa, credevo veramente che così volesse il padrone. Ma quando mi sono accorto che la signora voleva il contrario, ho avuto anche maggior coscienza, perché torna sempre più conto mettersi dalla parte della padrona. Cosicché tu vedi che in tutti i casi io sono sempre coerente a me stesso, fedele alla coscienza e fermo nei principi». «Sì, i principi», esclamò addentando con entusiastico morso un collo di piccione. «A che valgono i principi se mancasse in noi la perseveranza? Vorrei saperlo. Toh, Andy, piglia quest'osso, c'è ancora qualche cosa intorno». Siccome l'uditorio di Samuele stava a bocca aperta a udirlo, egli si sentì incoraggiato a proseguire. «Questa perseveranza, compagni miei e compagne mie», disse Samuele con l'aria di chi entra in un argomento difficile, «questa perseveranza è una cosa che quasi nessuno può ben comprendere. Per esempio, vedete, quando un individuo si risolve ad un partito per un giorno e una notte e l'indomani si appiglia a un divisamento contrario, si dice, ed è ben naturale che si dica così, che egli è poco perseverante». «Dammi cotesto pezzo di torta, Andy. Ma addentriamoci nella questione. Spero che lor signori e il bel sesso mi scuseranno se mi servo di un paragone un po' triviale. Ecco, io mi provo a salire sopra un fienile e a tale scopo appoggio la scala da una parte, ma essa non vi sta ferma e io provo dall'altra parte. Non sono perseverante in tal modo? Sono perseverante a voler montare dal lato dove la scala si regge. Capite tutti?» «Sì, E questa è la sola cosa nella quale siete perseverante, Dio lo sa, borbottò la zia Chloe, che cominciava a perdere la pazienza, poiché il tripudio di quella sera si poteva dire che per lei fosse, secondo la similitudine della scrittura, come aceto sul nitro. Sì, davvero, disse Samuele, alzandosi pieno di cibo e di gloria bastante per venire a una conclusione. Sì, miei concittadini, e voi tutte, signore dell'altro sesso, io ho dei principi, lo dico e me ne vanto. Sono oggetti rari in questi tempi, anzi, in tutti i tempi. Io ho dei principi e sto ad essi attaccato come la gomma. Tutto ciò che credo essere un principio è da me abbracciato. Nulla mi importerebbe d'essere arso vivo. Mi incamminerei direttamente a rogo in fede mia e direi: vengo a versare fino all'ultima stilla del mio sangue per i miei principi, per la mia patria, per gli interessi generali della società. Ebbene, disse la zia Chloe. Uno dei vostri principi dovrebbe essere di andare finalmente a letto a coricarvi stanotte e di non far vegliare la gente fino al mattino. Ora, ciascun di voi altri giovanotti, vada via subito di qua. Neri, voi tutti, disse Samuele scrollando la sua foglia di palma con aria dignitosa, io vi do la mia benedizione. Andatevene a letto e siate buoni figliuoli. E l'assemblea si sciolse. 9. Dove viene dimostrato che un senatore non è poi alla fine che un uomo. Il chiarore di un buon fuoco si spandeva sugli arredi e sul tappeto di un salotto magnifico, faceva scintillare gli orli dorati delle tazze e il lucido bricco del tè che erano sulla tavola, mentre il senatore Byrd stava cavandosi gli stivali per porre i piedi nelle pantofole che sua moglie aveva ricamate durante la sessione del Senato. La signora Byrd, tutta giuliva e gaia in volto, apparecchiava la tavola e di quando in quando si fermava per dare ammonizioni ai suoi ragazzi, un po' troppo vivaci e strepitanti, intesi a farle intorno tutti quegli scambietti inesprimibili che dal diluvio in poi formano lo stupore delle madri. Tom, lascia in pace la maniglia di quell'uscio. Mariuccia, non tirar tanto la coda al gatto, povero micino. Jim, non montare su quel sofà. No, no, voi non potete immaginarvi, caro, che sorpresa è stata per noi tutti il vedervi giungere stasera, disse ella finalmente quando trovò la possibilità di rivolgere una parola al marito. Sì, ho pensato di venire questa sera a casa per passarvi la notte e godermi un po' di quiete. Non posso più reggermi in piedi dalla stanchezza, ho il capo che mi va in pezzi. La signora Byrd rivolse lo sguardo sopra una boccetta di acquavite canforata che era nella credenza e pareva volesse prenderla. Il marito la trattenne. No, no, Maria, non voglio droghe. Una buona tazza di tè ben caldo e un po' di pace domestica, ecco ciò che desidero. Oh, che faccenda noiosa il far le leggi! E il senatore sorrise, come se provasse un'interna soddisfazione al pensiero di sacrificarsi per il proprio paese. Ebbene, disse la moglie dopo che fu versato il tè, che ha fatto il Senato? Convien sapere che per la tranquilla e buona signora Byrd era una cosa del tutto insolita l'occuparsi di ciò che avveniva alla Camera, poiché saggiamente considerava che aveva da fare abbastanza nel governo della famiglia. Il signor Byrd inarcò dunque le ciglia, maravigliato, e rispose: nulla di grande importanza. È poi vero che sia stata fatta una legge la quale vieta di dare soccorso a quella povera gente di colore che attraversa il paese? Mi è stato detto che si discuteva una legge di questa sorta, ma non credo che un'assemblea cristiana possa sancirla. Che cosa vuoi dire, Maria? Mi diventi forse una donna politica? Oh no, no davvero, io non darei un quattrino per tutta la vostra politica, ma in quanto a cotesta legge io dico che è crudelissima e anticristiana e spero, mio caro, che essa non ottenga la sanzione. Ecco tutto ciò che è stato fatto. Abbiamo votato una legge che proibisce di favorire la fuga degli schiavi del Kentucky, mia cara. Gli abolizionisti tanto fecero che i nostri fratelli del Kentucky sono molto irritati. E che sembra cosa necessaria per il nostro Stato e anche cristiana e giusta di fare alcunché per calmarne l'irritazione. E che dice questa legge? Essa non ci impedirà, spero, di dare a quelle povere creature un ricovero per la notte e di dar loro un po' di cibo, qualche straccio per coprirsi e di lasciarli andare in pace per la loro strada. Eh sì, mia cara, Ciò sarebbe un aiutarli e incoraggiarli, capisci? La signora Bird era una donnetta alta 4 piedi, con gli occhi azzurri, timida e di voce soave. In quanto al coraggio, era noto che una gallina l'avrebbe al primo grido messa in fuga e che un cane da guardia, anche in piccolo, l'avrebbe atterrita col solo mostrarle i denti. Per lei il marito e i figliuoli erano tutto a questo mondo. E nella sua famiglia ella regnava, anziché col comando, con la dolcezza e con la persuasione. Solo una cosa valeva ad eccitarla, e questa eccitazione si impadroniva di lei dal lato sommamente buono e generoso della sua indole. Tutto ciò che somigliava un tal poco alla crudeltà la metteva in uno stato sì violento che era tanto più sorprendente e inesplicabile data la mitezza del suo carattere. Benché fosse la madre più indulgente e pieghevole, i suoi figliuoli serbavano il terribile ricordo del castigo che ella aveva inflitto una volta che in compagnia di certi monelli presero a sassate un povero gatto. Bisogna sapere, era solito dire il piccolo Bill, che quella volta me ne rimasero i segni sulla pelle. La mamma mi venne contro incollerita e infuriata ed io fui ben bene staffilato, indi messo a letto senza cena. Prima che avessi potuto comprendere per qual cagione tutto ciò avvenisse, poi sentii che piangeva dietro l'uscio e questo fu per me peggio di tutto il rimanente. Da allora in poi non abbiamo più tirato sassi contro altri gatti. Nella presente occasione la signora Bird si alzò vivacemente, con un volto infuocato che ne faceva risaltare vieppiù la bellezza. E andando con aspetto risoluto innanzi al marito, gli disse: Ora, John, ditemi sinceramente, credete davvero che una legge come questa sia giusta e cristiana? Spero bene, Maria, che non mi porrai le mani addosso se ti rispondo di sì. Non mi sarei mai aspettata questa cosa da voi, John, ma non avrete votato per essa, spero. E perché no, mia bella politicante? Ma dovreste sentirne vergogna, povere creature innocenti, senza rifugio. È una legge vergognosa, iniqua, abominevole. Ed io, per quanto è in me, la trasgredirò alla prima occasione e spero che questa occasione verrà. Sì, lo spero. Sarebbe bella che a una donna venisse tolta la libertà di dare un po' di cena calda e un letto a povere creature affamate, per la sola ragione che sono schiave e che furono malamente trattate e oppresse in tutta la loro vita. Ascolta un poco, Maria. I tuoi sentimenti sono lodevolissimi e per essi mi sei sempre più cara, ma non bisogna, amica mia, lasciarsi dominare da impressioni che fanno traviare il giudizio. Non si tratta ora dei tuoi propri sentimenti. Si deve considerare quanta parte abbiano in ciò gli interessi pubblici. L'agitazione del paese va crescendo a tal segno che noi dobbiamo far tacere i nostri sentimenti privati per scansare danni maggiori. John, io non mi intendo di politica, ma so ben leggere la Bibbia e in essa vedo che è mio dovere di dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, consolare gli afflitti e voglio stare agli insegnamenti della Bibbia. Ma se questo tuo modo di pensare divenisse cagione di un grave danno pubblico, l'obbedienza ai precetti di Dio non produrrà mai un danno pubblico. So che questo non può succedere. La cosa più sicura è sempre di far ciò che Egli ci ordina. Ora ascoltami un po', Maria, e ti dimostrerò con un argomento chiaro e limpido. Via, John. Nonostante tutti i vostri discorsi, voi stesso nulla fareste di quanto dite. Ve lo domando, John. Vorreste ora commiatar di qua spietatamente una povera creatura assiderata, affamata, perché fuggitiva? Lo vorreste? Per dir la verità, il nostro senatore aveva la disgrazia di essere di un'indole particolarmente umana e benevola. E accomiatar qualcuno che fosse in angustie non era mai stato il suo forte. Il peggio per lui era in quel momento critico che sua moglie ben lo sapeva e perciò muoveva l'assalto da quel lato vulnerabile. Egli allora ricorse al mezzo solito, in tal caso, di guadagnar tempo per provvedere. Tossì più volte, prese il fazzoletto e cominciò a pulire gli occhiali. La signora Bird, vedendo ormai il territorio nemico senza alcuna difesa, non si fece scrupolo di giovarsi dei propri vantaggi. Vorrei veramente vedere che faceste una tal cosa, John. Vorrei proprio vederlo. Mettere in mezzo alla strada una donna mentre viene giù, per esempio, la neve, oppure prenderla perché sia condotta in carcere. Vi piacerebbe, forse? Con ciò fareste una gran bell'opera. Ah, sì. Sarebbe certamente un dovere molto triste da adempiere, cominciò il signor Bird, con accento di moderazione. Un dovere, John. Non usate per carità questa parola. Sapete bene che non può essere un dovere. Se altri vuole impedire che i suoi schiavi fuggano, li tratti bene. Questa è la mia massima. Se io avessi degli schiavi, e spero che mai ne avrò, son certa che non sentirebbero alcuna voglia di fuggire né da me né da voi. Vi so dire che quando essi stanno bene non si involano. E quando si involano, povere creature, soffrono abbastanza il freddo, la fame, la paura, senza che tutti si voltino contro loro. Per me, qualunque sia la legge, non posso volere il loro male. Oh Maria, cara Maria, ragioniamo un poco. Io detesto i ragionamenti, John, massimamente su questo proposito. Voi altri politici avete l'uso di rendere lambiccate le cose più rette e più semplici e poi non credete a voi stessi quando venite all'atto pratico. Io vi conosco abbastanza, John. Voi non credete, al pari di me, che questa cosa sia giusta e al pari di me non vorreste farla. In quell'istante decisivo, il vecchio nero Cujo, soprintendente della casa, si affacciò all'uscio e disse: «La signora vorrebbe venire un po' giù in cucina?» Il nostro senatore, discretamente sollevato, accompagnò con lo sguardo la sua piccola moglie con un singolare misto di piacere e dispetto e, adagiandosi nella poltrona, si pose a leggere un giornale. Dopo un istante udì alla porta la voce di sua moglie che in modo vivo e incalzante lo chiamava: «John! John, ve ne prego, venite qua!» Egli posò il giornale e, recatesi in fretta nella cucina, rabbrividì allo spettacolo che gli si offerse. Una giovane, di delicata complessione, con le vesti a brani indurite dal gelo, con le calze metà lacerate, era distesa sopra due seggiole svenute come morta. Era impresso in quelle sembianze il tipo della razza spregiata e tuttavia non si poteva fare a meno di ammirare la sua triste e commovente bellezza. Il signor Bird si sentì stringere il cuore e la commozione gli troncò la parola. Sua moglie e la loro unica fantesca di colore, la zia Dina, si affaccendavano per far ritornare in sé la straniera, mentre il vecchio Cujo, che aveva preso il fanciullo sopra le sue ginocchia, gli cavava in fretta le scarpine e si studiava di riscaldargli i piedi. «Oh, guardate, povera donna!» diceva la vecchia Dina col volto atteggiato a profonda compassione. «Sembra che il calore l'abbia fatta svenire. Ella non aveva cera da stare troppo male quando è giunta e ha domandato se poteva riscaldarsi un poco. Io cominciavo a informarmi d'onde venisse quando è caduta tramortita. A giudicare dalle sue mani non deve aver fatto grossi lavori mai. Povera creatura!» disse con gran compassione la signora Bird. In questo punto la donna perse i suoi grandi occhi neri e la guardò come trasognata. A un tratto un'espressione di agonia le intorbidò il volto ed ella si rizzò bruscamente gridando: «Oh, il mio Enrico, me l'hanno preso!» Il fanciulletto, udita quella voce, saltò dalle ginocchia di Cujo, corse alla madre e le gettò le braccia al collo. «Ah, è qui! È qui!» esclamò essa. «Oh, signora!» disse poi come fuori di sé alla moglie del senatore. «Proteggeteci! Non ci lasciate prendere!» «Nessuno vi farà del male qua!» disse la signora Bird con voce affettuosa. «Povera donna! Siete in salvo! Non temete!» «Oh, Dio vi benedica!» esclamò la donna, coprendosi con le mani il viso e singhiozzando, mentre il fanciullo, vedendola piangere, si sforzava di salirle sopra le ginocchia. Mercé quelle dolci cure donnesche, di cui nessuna si intendeva meglio della signora Bird, la povera donna si riebbe alquanto. Un letto provvisorio fu preparato per lei vicino al fuoco e in breve ella si addormentò di un sonno profondo e il suo bimbo, non meno stanco di lei, prese a dormire nelle sue braccia. Avevano tentato invano di toglierlo di lì affinché ella riposasse meglio, ma non volle separarsene e anche nel sonno lo stringeva con le braccia, quasi temendo che le fosse rapito. I coniugi Bird erano tornati nel salotto, dove, per quanto strano ciò possa sembrare, non si fece più parola che alludesse al colloquio precedente. La signora Bird si era messa a un suo lavoro di maglia e il signor Bird faceva le viste di leggere i giornali. «Sarei curioso di sapere chi ella sia», esclamò finalmente il signor Bird posando il foglio. «Quando sarà svegliata e un po' ristorata vedremo», disse la signora Bird. «Oh, senti, moglie mia», soggiunse il signor Bird dopo aver pensato un istante in profondo silenzio col giornale sempre in mano. «Ebbene, caro, non potrebbe indossare una delle tue vesti riadattata alla meglio. Ella è un po' più alta di te, mi pare. Un sorriso mal trattenuto sfiorò le labbra della signora Bird, che gli rispose: Vedremo. Dopo un'altra pausa, il signor Bird ripeté: Dimmi, cara. Ebbene, che c'è? Quel vecchio mantello di cui tu mi copri nel breve riposo del dopopranzo, faresti bene a darglielo perché ella è priva di vesti. In quell'istante, Dina si affacciò per dire che la povera donna era svegliata e chiedeva della signora. I coniugi Bird tornarono in cucina, accompagnati dai loro due figliuoli più grandicelli, poiché i piccini erano stati messi a letto. La donna era seduta sopra una panca presso il fuoco e stava guardando fissamente la fiamma con espressione di placida tristezza e di abbattimento d'animo. Avete bisogno di me? Disse la signora Bird con aria graziosa. Spero che ora vi sentirete meglio, povera donna. Un sospiro lungo e malinconico fu la sola risposta. Ma ella alzò gli occhi e fissò la signora Bird con tale sguardo angoscioso e supplichevole che le lacrime scorsero dagli occhi della piccola signora. Non temete di niente, qui non avete che amici, povera donna. Ditemi di dove venite e di che cosa avete bisogno. Vengo dal Kentucky. Quando siete giunta? Domandò la signora Bird, cominciando l'interrogatorio. Poco fa. E come siete passata? Sul ghiaccio. Passata sul ghiaccio? Ripeterono tutti coloro che si trovavano presenti. Sì, disse lentamente la donna. Appunto, con l'aiuto di Dio sono passata sopra il ghiaccio perché essi erano dietro a me, proprio alle mie spalle, e non c'era altra via di scampo. Signore Dio, esclamò il nero Kyujo, il ghiaccio è tutto in frantumi e viene travolto dal fiume. Lo so, disse ella come sbalordita, eppure io sono qua. Non credevo di giungere alla riva opposta, ma nulla me ne importava. Il peggio che potesse accadermi era di trovarvi la morte. Il Signore mi ha aiutata. Nessuno sa fin dove possa giungere l'aiuto di Lui se prima non lo prova, disse la donna con gli occhi scintillanti. Eravate schiava? Disse il signor Bird. Sì, signore, appartenevo a un possidente del Kentucky. Vi usava egli durezze? Signor, no, oh no, davvero. La mia padrona fu sempre benigna con me. Che cosa dunque vi spinse ad abbandonare una buona casa e a fuggire esponendovi a tanti pericoli? La giovane fissò sopra la signora Bird. Uno sguardo acuto e indagatore non le sfuggì che ella vestiva a lutto. Signora, disse a un tratto, avete perduto un figlio? Questa domanda era inaspettata e riapriva una piaga recente. Un mese appena era trascorso da che un amato figlio era stato deposto nella tomba. Il signor Bird si voltò prontamente e andò verso la finestra. La signora ruppe in lacrime, poi, riacquistata che ebbe la voce, disse: Perché mi fate questa domanda? Sì, ho perduto un figlio. Voi dunque mi comprenderete. Io ne perdei due a breve intervallo. Li ho lasciati laggiù, sepolti. Mi è rimasto questo solo. Io non ho dormito una sola notte senza di lui. Egli era il mio tutto, la mia consolazione, il mio orgoglio, giorno e notte. Oh, signora, me lo volevano strappare per venderlo. Venderlo per il sud, signora. Solo soletto, un fanciullo che in vita sua non si staccò un solo momento dalla propria madre. Non ho potuto reggere, signora. Ben sapevo che se me lo toglievano era finita per me. Quando ho udito che le carte erano firmate e che gli era venduto, me lo sono preso in collo di notte e sono fuggita. Sono corsi in traccia di me, l'uomo che lo aveva comperato e alcuni servi del mio padrone, e già erano vicini ad afferrarmi, ma io li ho sentiti e sono saltata sul ghiaccio. E come io abbia valicato il fiume non so, mi ricordo solamente che un uomo mi ha steso la mano per farmi salire la sponda. La donna non singhiozzava né piangeva, era pervenuta a quel punto in cui la sorgente delle lacrime è disseccata, ma tutti intorno a lei, ciascuno a suo modo, davano segni di grande simpatia. I due ragazzetti, dopo aver frugacchiato disperatamente nelle loro tasche in cerca di quei moccichini che mai vi si trovano, si erano accostati ai fianchi della loro madre e singhiozzando si asciugavano gli occhi al loro bell'agio tra le pieghe della sua veste. La signora Bird si copriva il volto col fazzoletto e la vecchia Dina, tutta in lacrime anch'essa, esclamava con voce patetica: Signore Iddio, abbiate pietà di noi! Il vecchio chiugiò, asciugandosi fortemente gli occhi col rovescio delle maniche e muovendo nelle più strane guise i muscoli della faccia, rispondeva tratto tratto col massimo fervore alle giaculatorie della vecchia.